Thank you.

sforzo a pianger sempre. Andromeda infedele, uscita appena dalle mani di Cloto, con gli occhi e lingua parlo sì che potea disperare ogni amante. Andromeda infedele, penso di dammi, este mi disse che da lì fuoco. Mal credi, se già credi, la sua sposa esser dei, e questi fuori i giuramenti miei. Si rinforzi in bella sera di quel bene si rinforzi in te la sfera di quel bene che delizia di tuo fatto di quel Thank you. E ormai io avevo La tua nemica sorte